fatto 1 su 10. Chi è avanti? In realtà io so che stavo provando. Buongiorno. Buongiorno Gianmarie. Saluti da Antonio. Te lo ricordi Antonio? Cosa hai detto? Non t'ho capito. Saluti da Antonio, il paesano tuo. Grazie, ricambiati Natali. Ricambia da parte mia. Ah, ya c'è allora. Pensavo che non ci fossi, ma ya c'è. Ehi, sta insegnando in quel corso che sto andando io, quel paesano tuo. Mi ha detto di salutarti. Ti ringrazio, Natali, ti ringrazio. Ricambia i saluti. Ok, e infatti sapevo che da 2 anni fa che facevo questo lavoro, capito? Comunque sto bene. Ha voglia, ha voglia, c'ha una figlia che sta studiando medicina, si deve laureare. Ah, ho capito, beh, certo. Io sapevo che stava studiando, ok. Comunque venerdì quando vai me lo saluti, tanto. Eia Gianmarie, sarà fatto. Eia, eia. Com'è questa radio in realtà? Di lusso. Ecco la somma, qua la somma sono, ecco. Quel pezzo di basso di scopa. Già, andiamo in diretta, là va. Quando ti piazzi l'antenna, chissà chi devi pigliare, vedrai che cambia dal giorno alla notte. Eia, eia. Ma infatti, penso che me l'abbiamo già ordinata, non sono sicuro bene perché stavo provando e non glielo dava, non glielo facevo fare a telefonino. Dice che ritelefonava, adesso mi dà una risposta se l'ha ordinato oppure no. Ok, va bene, se mi dici che funziona bene sono contento così, dai, almeno me la piazzo e sono più tranquillo, dai. Eia, c'hai un piccolo innesco, forse è alto, troppo il volume della radio, Gianmarie. Innesco ciò, vediamo un po' adesso. No, adesso no, adesso va bene. È perché mi stavo mettendo un microfono vicino alla bocca, per quello in realtà. Siccome mi sono avvicinato alla cattedra l'altro giorno, no? E gli ho detto chi ero e tutto. E mi ha chiesto di te. E te l'avevo sentito il giorno prima io. Mi l'ho sentito ieri. Quello è paesano mio, E te già lo so che è paesano tuo quello. Salutamelo quando lo senti, mi ha detto, e così ho fatto Gianmarie. Adesso venerdì quando vado gli dico ti ho sentito e gli porto i saluti tui. Ehi, ti ringrazio Natà, ti ringrazio. Lo so, è una brava persona, È una brava persona, lo conosco benissimo, infatti è paesano mio e conosco tutta la famiglia, Conoscevo anche il padre, la buonanima, e per cui sono vecchi amici, dai. Va bene Natà, dai, ci sentiamo che sto facendo cosa, ok? Ok, buon proseguo allora, dai Gianmarie. Ci sentiamo, alle prossime, dai. Ciao Natalia. Chi è che ha salutato? Buongiorno. Ciao anche a Gianmarie, buongiorno a voi. E allora, Tattalino, adesso ti sei svegliato? No, negativo, cosa... adesso mi sono svegliato. Sono sveglio da presto io. E non quanto mai, io sono dalle 5:30 in più. E come ti mai sei da così presto già? Perché prima c'è da portare il cane, pulirmi gli animali, tutto quanto, e poi devo accompagnare Elena al lavoro. Ah, già è vero, mi vai l'altro travaglio prima. Chi c'è un travaglio già? Ah, ma io lo faccio proprio volentieri. Ma se non avessi dovuto accompagnare a lei, io me l'avrei fatta alle 8:30, alle 9, dipende. Solo che devo accompagnare a lei, devo alzarmi presto. Già ho capito. E ho trovato lì al corso un amico di Gian Maria, cioè un paesano proprio, del paese di Gian Maria, che è radioamatore, è uno dei docenti lì e insegna, capito? Già stavo ascoltando, era in ascolto Natalia. Stavo ascoltando, ma stavo facendo roba e adesso mi sono sdraiato perché ho la gamba a pizzi, sono andato a San Gavino a farmi un giro, ma mai più, ogni 5 minuti mi devo fermare. Già lo sai, mamma mia, io non esco per quello, perché non posso camminare già, è per quello, e poi mi sono lasciato un caso, mamma mia, c'era un caldo ieri della Madonna proprio. No, ti dirò che all'ora che sono andato io, verso le 7:30, a caldo non ce n'era, si stava bene, là. C'era un po' di arietta, no, già si stava bene per quello. No, sono andato al bar Capriccio, alla gelateria, e mi sono fatto un bel gelatone e via. Alla faccia mia. Però sai che riconosce tutti al produttore, dove si mangia bene, dove si mangia bene il gelato. Già lo so che conosci tutti i buchi tu, anche io lì, solo che rimango sobbissido, perché quando a camminare a piedi a me, io fatico a camminare a piedi perché mi viene quel dolore là, capito là, come faccio un po' di metri mi butti. E a te giù, io mi dovrò operare di nuovo. Perché da una parte sono stato operato e ho acquistato il 100%, dall'altra però non sta male. Là. Ho capito. Lo sai, non si può stare, no, questi gandù. Poi tu sei pesante come persona, dovresti dimagrire anche un po'. Ma non è quello la taglia, lo sono consumato. Se l'osso sarebbe stato normale non mi avrebbe fatto nulla, è l'osso che è consumato, come mi metto la protesi non sento più nulla. Già lo so, perché quando va osso con osso, allora sono dolori, già lo so, già voi, mamma mia, un'altra benedenza, chissami. Infatti adesso mi sono sdraiato perché non ce la facevo più, ho fatto un po' di roba a casa, ho fatto l'insalata del riso, adesso Marco doveva venire a pranzo, mi scrive che non ci viene perché è stanco, cazzo, cioè, ha fatto qua la lavamano di insalata del riso, ma non. Poi sarà il frigo già, a tutti i dini, ma dimmi tu, è stanco. Un pizzino, a chi se dai lo brinchendo i muri io e ti chendi i vidori, già lo sai tu. Ma si ritira nella riguata di Manzano, bagisci che sacco. E allora prima fanno le ore piccole, dopo non ne possono più, la vita, capito? Io non credo che sacco, mala sorte, cazzo. Hanno le signorine, quindi vanno a ballare, vanno nei locali, eccetera, eccetera. Tu devi vedere ieri a Portottore su cosa c'era di canti nei locali. Oh, c'era anche un gruppo che ha fatto la canzone per San Gavino, per la festa di San Gavino. Diceva praticamente che tutti escono in abito, tutti tirati, eccetera, eccetera. Erano in due erano che cantavano. Poi c'era il karaoke e tutti i bar. E in questo d'ora vi bene, mi hai si gozzi. Già lo so, oggi è San Gavino, così è. Ha cominciato ieri, poi c'è oggi e poi c'è lunedì che fanno la frittura di pesce, se lo stanno ancora facendo, non lo so. E infatti, ma io non so che andare a Lugano, Gesù Cristo mio. A me la cosa di non poter camminare mi ammazzente. Vabbè, non puoi fare nulla. E cosa puoi fare? Niente, puoi fare nulla. Cosa, se no se abbiamo dovuto fare che cosa mi l'abbiamo invata, no? Ma tu hai chiesto? Non si può fare nulla, no? Che sono c'ho le cose otturate, no, ma arriva il sangue da altre parti, non arriva da dove deve arrivare, capito? E perché lo devi, a come sono otturate. Ma tu lo sai benissimo che ti mettono il palloncino te le allargo. E se l'avessero potuto fare me l'avrebbero fatto già. Cazzo, non può si sa un bisanca. Ma lei chi è? Fa cosa quando mi viene il dolore, mi devo usare per forza, se no non mi basta. Qua è un dolore allucinante. Come che ti venga un crampo forte? Anche a me mi succede. Ma che a me mi vengono dei flash di dolore che allucinano. E a me, Rudy. Oia, oia. Oioi, vabbè. Quando sarà mi opererò, se lo chiede se c'è un po' di problemi, nel senso che devo lasciare gli animali da soli, non so chi me li tiene, Elena sta lavorando, chi l'accompagna, è un casino. Devo risolvere queste cose, se riesco a risolvere vado e mi faccio operare. Infatti ti conviene, a chi non si può stare così, lo so io che non posso, io non posso stare con un carro così. Comunque uno camminando piano piano e sedendosi come perché può. Può, però a me mi fa di male, un dolore, agio. Te lo ricordi la volta del policlinico che cazzo non mi sono messo a piangere per la vergogna? Andando a pigliare un drago, Gesù Cristo mio. Ma la faccia è già tale. Vabbè. Non fa niente. Oh, a che ore sono? Che va di buva cosa? Già è chisto ancora. E le 11 ma non qua, alle 11 e mezzo devo andare a prendere aereo, vai. Oia. Mi sono sdraiato 5 minuti a che non voleva dubbio, mi voglio andare a fumare. E anche a guidare è un casino. Anche a guidare, non tanto per guidare, quanto per entrarci la gamba dentro la macchina. Ui, cosa devo fare, sai? Sembra paralitico sempre. Già lo so, già lo so, non dirla a me. Allora mi sei facciato un motorino dello spruzzino dell'acqua nella macchina e qui c'è avviso mio 70 euro e tocca smontare tutto il passaruota perché è dentro lì. Dimmi tu. Vai al ferro vecchio lo trovi? Al ferro vecchio? Ma padre Roger, l'ho preso lì io, l'ultima volta. Ma tu lo sai Cristiano come si piazza quel motorino? Perché dice che bisogna smontare tutto il passaruota, non so, ma adesso l'elettrauto. Ruota, passaruota, tutto quanto. Cosa Cri che non ho sentito un attimo, che c'avevo roba accesa. Ruota e passaruota e ritornane e basta. Che parte è, a destra o a sinistra? A sinistra è già, è a sinistra è. Perché dove c'è la boccetta che metti l'acqua, è proprio il motorino dello spruzzino che non funziona più. Molto l'hai pagato, Cri. Questa è una cazzata, vero? Non me lo ricordo, ma questa è una cazzata. Vabbè, nuovo costa 70 euro, però mi ha detto l'elettrauto. Completo tu lo prendi, completo con la boccia. Tu completo lo vendono adesso. Tutto il pezzo vendono al coso, al... come si chiama? Al ferro vecchio. E poi da tavone, da dove vuoi, l'hanno... lo trovi subito. Speriamo. Adesso vado e cerco di buscarmelo così mi rubiazzo. Chi suburo vivo? Solo che bisogna andare in un'officina per forza per piazzarlo, sennò come cazzo fai a piazzarlo? Poi un ghisanca che va giù, io non posso fare un cavolo. Perché un'officina? E come fai? Bisogna alzare la macchina, togliere la ruota, dopo trovare tutti i cosi che fermano il passaruota. Io non ne ho mai fatto di quel lavoro lì. Vieni a casa, lo facciamo a casa. Vabbè, allora, ma il numero mio ce l'hai di telefono tu, Cri? No, non ce l'ho, perché ho perso i telefoni anche. Come? Perché ho perso i telefonini, non c'è più il numero di telefono di nessuno. Ah, cazzo, e telefono non ne hai tu adesso? Sì, ce l'ho il telefono, ce l'ho sempre io. Ah, ce l'hai il telefono? Certo. Vabbè, tu lo sai dove abito, al limite mi fa uno squillo e così me lo segno. Vieni qua e me lo segno quando sei a comodo, capito? Almeno come busco lo spruzzino lo facciamo da te. Se tu l'hai già fatto facciamo in fretta. Io l'ho fatto, non una bucca, un bel bucchio. Ma non appunto, l'ho fatto nell'Audi, l'ho fatto a Mercedes, ho fatto un po' di macchine. Ah, ho capito. Vabbè, adesso cerco di buscarmelo, il motorino. Ma busca dove lo faccio, non c'è problema, vai tranquillo. Adesso sei basso basso, Cri, non ti ho capito. Sono arrivato in casa, non so, guarda anche. Qua sulla BDV, quel ferro vecchio che c'è, che ce l'ha sempre qui. Vabbè, già, non lo sento più a Cristiano. Perché sono già dentro il viotto, c'ho roba dentro la... Ah, ecco, perché nel viotto lo ricassi. Non ho capito. Io ho già capito, lui non ti sente, gliel'ho detto comunque, che sei nel viotto di casa tua. Perché? Sì. E vabbè, vedetevi d'accordo, l'ho fatto quella volta. E magari qualche filo che gli si è staccato anche, ma non è detto che sia per forza il motorino. Ti conviene, Natalia, a controllarlo prima, vedi, se qualche filo l'attacca e buco. No, perché tocca aprire. Tocca aprire tutto, non è così. Si apre e da poi non vai rubetto, come ti cazzo vai? Assolutamente, tu vuoi togliere il faro, esce dal faro. Cosa ha detto già? Boh, stanno parlando sottofondo, cosa hai detto? Sono l'unico modo, mi hai togli il faro, vedi dove c'è il faro. Ha detto che puoi togliere anche il faro e metterlo dove c'è il faro. Per controllare i casi, si è staccato un capo. Ha capito. Per vedere se c'è il capo staccato, basta che togli il faro e lo vedi. E allora va a cavare il faro, non era appunto cosa bisogna fare. Non hai idea, bisogna cavare il faro a urti, prima cosa, sennò non esci il faro. Oi. Non è gai su conto. Vabbè, dai, fate la casa, facciamo a casa, dai. Tu mi dico, a comprarci il pezzo e poi magari vi mettete d'accordo. E allora, ne ha cambiato tre la settimana scorsa, l'elettrauto, capito? E me l'ha detto subito, se funziona nel tiro di cristalli è il motorino dello spruzzino. Perché lo so, io gridivo era un fusibile i facciato, sono andato dall'elettrato, giusto controllare la mia macchina, mi si è bruciato, no, era un motorino, ma giambato direi chissà che ha detto. Dove vai dall'elettrauto la tariffa? Pierluigi? Sono andato da Pierluigi, mi ha detto, è lo stesso fusibile del sergicristallo, quello mi ha detto, quindi non è, è il motorino che ti si è bruciato, perché voi mettete solo l'acqua e non mettete l'anticalcare nella boccetta, ed è per quello che si guasta. Bisogna mettere l'acqua distillata. E cosa cazzo io punivo il rubinetto? Anzi, da 20 anni che sono a Torino, una via gana di fasciarsi. Ma io metto sempre liquido, quello per il cristallo. C'ha miscelato tutto. E anche l'antiossidante. E vabbè, io mettevo l'acqua normale, è per quello che mi si è rotto adesso. Basta un granellino di qualche cosa e te lo rompe. Io metto l'acqua in bottiglia direttamente, l'acqua in bottiglia. Cata, io a Cristo non riesco a sentirlo, sento che parla ma non capisco quello che dice. E basso basso, chissà la cazzo d'antenna va. Adesso siamo alla cambio l'antenna, dai. Ma io l'ho sentito benissimo. Vuol dire che l'antenna guarda la tua. Io Cristo ti sento Santiago Lover Radio 5, va benissimo. Ma tu sei pizzina Edu. Pizzino, se sei la buddibudile. E vabbè, e ci sei tu prima di me. Capito? E io lo sento basso, basso, basso. E non capisco quello che dice molte volte. Vabbè, Cervi se parlare in fretta, Cristian, ma io glielo capisco bene. Vabbè, Gianni, prima di prossimo lo metto la 2001 sulla capota, dai. Che buco fa? Ma anche no. Sempre con la magnetica? Minimo, buco la capota non ne farò mai. Intanto dovrebbe essere stretta razza, come la piazzi un euro di stazionaria, se l'è piazzata bene è così. Questa la magnetica è quella da 100, la più grande che c'è, la più grande mi compro la base magnetica, che metto quella lì. Vabbè, la buona antenna la divino io. E chi sei buona? Però proprio sarà alta, sarà 2 metri, però non me l'ha tenuto. No, quelle che stanno facendo adesso sono 1,80 m, non sono 2 metri. Prima le facevano a 2 metri, adesso stanno facendo a 1,80 m. L'ho misurata apposta. E vuol dire gli hanno messo più carica sotto. Scusa, la mia è già 1,50, 1,80 m, sono 30 cm in più, già sono nulla. È tipo l'antenna, oh. Capito, Cristian, è un tipo d'antenna che ti mette. Capito, la mia è 1,50, vedi ci metti in più, però sono nulla sono me. Appaga, avanti tattali. Cazzo, c'ho il coso Santiago 3, c'ho. Però c'è gente che parla sotto e mi dà fastidio a sentire a Cristian, capito? Gianni, tu ricordi qualche l'antenna di Benito quando è buco? Quella. Dove mettere a mezzo della riera però. Ma ci sono anche quelle con quei molloni, non ce le presenti? Queste in acciaio, con il mollone grande, 2,75 di stilo. E io sei di Carraimà, due. Sì, qualcuno ce l'aveva. Ce l'aveva Agostino, quella lì. Sul 127 blu, ce l'aveva la macchina della polizia. A me figurati. Ragazzi, che adesso non vado a casa, al fresco, dai. Poi io... E cosa si mangia oggi di buono? La preferia non la so neanche. Ma cucini tu? Anche. Cavaga. No, io ho fatto salata e riso, almeno è fresca. Ma di solito cucino la basilia, ma oggi per cucinare non è, ci mangiamo quello che ci frega. Ma pensavo che era Claudio, invece questo qua che arriva forte, con la voce grossa. No, ieri l'ho acceso, sentivo, tanto qua il bailame c'era ieri, poi gente dalla Calabria, dalla Sicilia, boh, da Pakistan, 9.30, tutto 9.30 quasi. A voi tirata lì. Eia. Oh signor, che casotto. Adesso sento anche troppo, ma dimmi tu. Ah, vera, niente cazzo di Fabio D'Azotto. E siccome lui mi arriva a Santiago 5, Cristian, e mi viene male a sentirlo, perché mi fanno casino quelli di sotto. Perché non c'è la stufetta, c'è la stufetta ancora. E tu cosa la metti sul tetto, Cristian? Non lo so, adesso vedrò come la metterla. Adesso mi devo mettere la casa, come mi raccomando, e poi la metto. Ah. Sai il problema? Che la casa ci ho preso solo io e basta. Perché mi ha fatto lo piccolo, sto lavorando, stavo a 3 Sassari. Il grande sta lavorando, solo a casa, che faccio io per la casa, capito? Oh, Cristian. Buonasera, buongiorno Natalì. Carlo da Questa, buongiorno Natalì. Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno Carlo. Scusami per l'altra volta che in aeroporto avevo la porta allarmata, quindi non mi potevo trattenere, capito? Se no, se stai più di 20 secondi scatta l'allarme, quindi ho dovuto chiudere. Non ti preoccupare, va tranquillo. Ti capisco. Che poi non ci siamo più sentiti, non ti avevo più neanche sentito per radio, quindi ho detto magari si è offeso come ho chiuso la porta. No, no, non sono offeso, va tranquillo. Perché ognuno ha il suo lavoro, e il tuo lavoro è quello purtroppo. E lo capisco cosa vuol dire. E se fossi stato magari fuori da quel servizio, volentieri magari ci avremmo preso anche un caffè, ma lì, capito, sei aggregato. In quel buco e non ti puoi neanche spostare. Ehi, vabbè, dai, non c'è un problema, dai. No, quello è un amico che doveva fare le gare a Palermo a carrozzina. Ho capito, sì. No, infatti adesso ti ho sentito, ho detto, mi Cristiano, ho detto, ero da parecchio che no, non entravi forse, oppure magari non ha coinciso con quando ci sono io in radio. Tutto qua, sei sempre in auto, no? Sì, no, non proprio proprio, perché la macchina era in stand-by in officina e un quadro tecnico. E ho capito, va benissimo, ok, mi fa piacere averti sentito, dai. Vai Natali. Ehi, cazzo, oh, iaia. Che casotto, che casotto! Cosa ti hanno combinato di nuovo i vicini? Nulla, per il momento nulla. E io, yeah. Mi hanno messo nel mirino, questi bastardi. Fregatene, tanto fanno così, no? Adesso hai visto, hanno chiamato chi hanno chiamato, non è successo niente, poi vedrai, passa il tempo e già sfiorisce tutto. E infatti... Tanto mi cazzo anche la prolunga ho dato senza accorgermene. Ho dato la prolunga del microfono, adesso mi tocca usare questo barrasone qua, manuale, che pesa una tonnellata. La prolunga del microfono tu stai dicendo. E allora mi avevo fatto la prolunga per l'MB più 4, no? Cazzo, era di lusso. Come ne ho smontato tutto gli ho dato anche la prolunga, credendo che era la prolunga dell'altro microfono, invece no, era dell'MB più 4. E non c'ho neanche uno di quei, come si chiama? di quegli stinotti a 4, se no me l'avrei rifatta con un pezzo di filo, perché c'ha il cavo troppo corto questo MB+4. Ho capito. Beh, riprendi con Cristian un attimo di bianco, che sto finendo di farmi la barba, che ho sentito Cristian e per quello sono entrato a salutarlo. Dai, già riprendo tra un attimo se ci siete, finisco. Ehi, dai, non vorrei che dopo ti, se no le signorine come fanno, gatto, se ti vedono con una parte sbarbata e l'altra no. Eia, ciao Cria, a dopo, tra un attimo. Dai, chiudo anch'io, ciao Carlo, l'ho sentito anche a te, dai, chiudo anche io che devo fare una commissione, vengo subito. C'eri anche tu Gianni, scusami, non ti avevo sentito. Sì, ma ero un po' abbioccato, ti dico la verità, perché mi sono alzato presto e quindi sono un po' assonnato. Ce la risentiamo, dai, faccio un attimo di stand-by, poi riprendo al limite se c'è qualcuno tra 10 minuti. Eia. Ok, ok, vabbè, vai a fare quella commissione, già sono in ascolto io qua. E ancora è presto, alle 11:15 vale, tanto si muovo tutto in. Ne cappa. Mi sei andato se? Oh, non lo so. Cristian, ci sei? Cristian. Già sono ancora qua, ma un sonno allucinante. E come mai? In cameretta mia, ma 36 gradi stamattina in cameretta, sono svegliato alle 4:30. Ah, lo so, anche io non riuscivo a dormire, un po' abbioccato, però non riuscivo a dormire dal caldo, mi ho fatto correre tutta la casa, ho aperto tutte le finestre. Ah, ha cominciato un po' a entrare un po' l'ariete, e da lì ho cominciato a riposare bene. Sì, c'è un po' di freschetto, grazie a Dio, c'è un po' di aria fresca e si respira oggi, dai. Solo che poi lasci le finestre aperte e te ne alzi tutta dolori. Poi? No, da 3 mesi mi sono già fatto un po' di calore, a freddo, aiuteremo di lumattessi. Caldo sta facendo, ma lascio, che so quanti gradi c'erano ieri, e la sua respirava. Ieri? Quasi 42. No, ma ne sono sceso a San Gavino, si stava bene, verso le 7:30 sono sceso e non c'era molto caldo, dai, si respirava bene. Allora mi hanno invitato, ma non voglio riuscire, è troppo stanco. Intanto c'è anche oggi, c'è oggi, domani. No, c'è andato stasera, fermo un giro, dai. Stasera si può andare, ma domani, vabbè, faranno il pesce fritto al porto, se lo stanno ancora facendo, perché prima c'erano una padella enorme. Non so quanti litri duri ci mettevano per friggere il pesce, e friggevano i, come si chiamano, i calamari. Adesso lui ha cosa più della benzina, quasi. Ma c'era la fila come tempo di guerra, dovevi conoscere gente. Non c'è problema, c'è la cosa che dopo la terra, si buglia. Vabbè, ma devi conoscere le persone giuste, tipo gente che lavora al servizio d'ordine, il CISO, eccetera, eccetera. Conosco, fidati. E chi conosci? È Spava. Ah? Servizio ambulanza. Hai fatto il servizio ambulanza? No, sono tesserato alle Spava io. Vabbè, io comunque li conosco tutti. Non c'è nessuno che non conosca. Non c'è problema, vado a base un amico un attimino già. Ma loro fanno andare avanti la gente, capito? Se tu li conosci ti fai portare la roba e te la prendono e te la portano loro. Specie una base. Hanno cambiato molte cose, Natalia. E dimmi già. Ieri sono passato dove lavoravo, non è più Simpli. Adesso è Euro. Non mi ricordo come cacchio si chiama, hanno cambiato anche il nome del supermercato, non è più come prima. E vabbè, chissà che va da vita. E si saranno associati altra gente, mi capitola. Sicuramente. Lo fanno per risparmiare, dovrebbe fare i prezzi più bassi, capito? C'è un po' di concorrenza, produttore, è un casino. E in tutti i rubi è così? Hanno aperto Eurospin, la Conad, poi che cosa non la Isa. Insomma, ce ne sono un bel superiore, il numero degli abitanti è inferiore ai supermercati di Viso. Figurati. Concorrenza lì da bisarà. Perché ogni supermercato può servire per dire 1000 persone, per dire, adesso ce ne sono per 1000 persone, per dire 4 o 5. Figurati. Ma non fate dipendente nonna Isa. Cosa? Il fratellino dipendente nonna Isa. No, non ti ho capito, dipendente di nonna Isa chi? Il fratellino piccolo. Ah, Ma dove? A Sassari? Sassari e Porto Torres. Sì, allora lo conosco sicuramente. Mica, lui è in gastronomia, lui è. In gastronomia sta? Io praticamente da Nonna Isa ci sono tutti i miei ex colleghi, se ne sono andati da lì e sono andati da Nonna Isa. Mi è quasi uguale a me, è quasi simile a me come, come viso. E io pensavo che eravate solo in due qui, tu e Antonio, invece ce n'è un altro. Siamo in tre, siamo in tre. Tutti maschi. Siamo in tre procellini. Tutti maschi. Ma no, prova la mamma. Ma vedete, tutti maschi o tu sei gay? Ma è tesoro. Caro, caro. Oi. Ma prima che io deve dedicare all'agosto, fidati. Gianni, ma tu peloso sei? No, proprio peloso no, Natali, e per fortuna. No, io proprio peloso no. Diciamo che nelle ascelle ne ho pochissimi di peli, anche nel diciamo in pancia, non ci sono certi che sono degli orsi. Ne ho visto certi al mare che anche le spalle ci avevano peli di ma pelosi, baro. Sì, vira un radetto di mia cognata e pari a una scimmia. King Kong si chiama. Fresco! Senti! Gianni, ma lo dai un controllo per se funziona bene! Dai, è lampazidutto! Lampazidutto, d'ore! Sì, appena appena da lontano! Ha la voce, cioè la radio è chiara ma non è forte, dai! È esagerato che sì! E adesso forte! Ah, ti supera uno spagnolo, eh! D'ore, buttaci tutto! Cado! Natali! Vabbè, tutto bene, sì. Va bene, sta uscendo. Già andando bene, già sta andando bene, Tore, non ti preoccupare. E tu hai alzato il volume, altro di più. Forse so io che sono lontano. E adesso va bene, Rubele, sei tu, sì. Te l'ho detto, sei lontano. Sei tu che sei lontano, sembrava... avevi l'effetto... camera, mi hai capretto? Ha già il capretto, tu è che non hai capretto. Comunque ti ho sentito meglio, eh. E gli altri tre, mi sono capizzinelli. Caore, ma peloso sei tu. Chi vuoi, assaggiato. Rusogu, cosa mi devo depilare? Quando fai così ti temo, Tore. No, anche Natalino vuole provare il cespugliatore se funziona. Così è. No, è meglio non mio allora. Non ce ne compro di nulla, ma li sentite questi? Non sono splatter, sono così propagazione. E allora, non è per quello che sento la Cristiana male io. Perché c'è la propagazione sotto. E la buda. Fino a biglia e luci. Adesso me ne preparo e vado, non la giugana è Natalia, che qui sul gas non la giugana nemmeno di sci. E mi lo posso immaginare, mamma mia. Ui ui ui. E di lì mi piace un drambu. Sì, povera, c'è un gas da mai sai chi vi agita di un drambu. Poi la domenica passano ogni quanto vogliono loro. Ah, vado a prenderla, dai, tanto già faccio in fretta. Ha detto la 50 che già c'è freschetto oggi, già sta bene. Non c'è tutto questo caldo come quello di ieri. E insomma, io ho aperto tutte le finestre a casa per fare un po' di corrente. E si sta bene, però se poco a poco chiudi le finestre, va che andare a vivere, no, qua c'è il sole, pure sarà un ubacone, mamma mia. Vabbè, dai, vai a pigliarla, così a romanco fini due rimpari e poi dici su chi dove ti va. Andà bene, Meda. Oggi sei pure da solo, che non c'è nessuno, che non vi viene, dove gli uro. Ti ha fatto lo di petto, gatto. Ti ha fatto l'insalata di riso, gatto, e ti ha snobbato. Ieri mi sono coricato tardi per farla, perché Elena si è dimenticata a mettere il riso e le uova a bollire. Quando sono tornato a San Gavino mi sono messo io a farlo, proprio perché lui mi ha detto, papà, la prossima settimana ti consiglio di fare il salato e il riso. E vabbè, l'accontentemmo. E ti ha snobbato, roba la chiudi. l'avrei castigato. Ah, si mangia lì. Sto male che faccio, la bocca frigida, che andano a giocare nella gamba. E infatti, cazzo, la tradi non mattessi la giubbata io, ma cosa, roba a gaglia, cosa mangi, roba a gaglia. Con questo caldo che c'era, no, non fa zia, no. Ma ho comprato pure una cosa di chi si, di, una, un pezzo di chi si, di chi si ha ricotta mucchia, amici, era poco buona. Tu quando compri la ricotta mucchia, devi comprare quella di pinna, è la migliore che c'è, non è salata ed è buona, solo che a me mi fa affogare, devo avere sempre il bicchiere o della birra o dell'acqua vicino, perché come la mangio non riesco a ingoiarla. No, anche questa era buona, l'ha presa al mercato, la 50, e ti dico, era veramente buona. Già mi piace anche a me tutta la roba affumicata, mi piace salsiccia affumicata, speck, il salmone affumicato, tutta la roba affumicata mi piace. Cappa, se ne ha giocata per la perfreca da rubrico e mi l'ha già mangiata la ciarì e ne ha già ancora un poco, già vedi. ce n'è. Io sto mangiando mozzarella, caprese, roba così, frutta, a gogo e gelati, buh. Salati manco primo a giovato, una vera insalata ma giovato e con chissà ricotta mucchia ha già concluso, non è fatto primo, no. Io già non ne faccio d'inverno, figurati adesso. Io lo faccio solo la domenica, quando vengono loro, e non ne mangiamo prima noi, mangiamo solo insalata e bevi una fettina, un pesce, quello che c'è, però prima non i vostri. E infatti oggi mi do cavalla che è domenica. Vabbè dai, ci sentiamo, anch'io passo in quel RT che bisogna fare qualcosa qua, se no non si mangia. Ciao a tutti, ciao Natali, ci sentiamo, buon corretti Natali e ci sentiamo stasera magari. Ciao Cristian, ciao a tutti gli ascoltoni, corretti per me, ciao Tore, ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao, corretti anche per me, dai.